Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, puntata particolare purtroppo quella di oggi per la tragedia avvenuta in Afghanistan a Kabul. Alle 18 inizierà uno speciale di Radio 24 dedicato appunto alla morte dei 6 militari italiani e non solo, con vari collegamenti. Ve lo anticipo perché chiaramente questo vuol dire che il programma oggi, come doveroso, si interromperà alle 18. Noi continueremo, seppure in questo lutto, a darvi la cronaca della giornata economico-finanziaria e partiamo con i temi di questa giornata, che riguardano da un lato alcune anticipazioni sulla manovra finanziaria molto leggera e molto più snella rispetto a quelle precedenti, stanno uscendo le prime anticipazioni, ma anche novità sul decreto anticrisi e soprattutto sullo scudo fiscale, prove di allargamento, come ha già scritto il Sole 24 ore oggi, per la copertura più ampia sui cosiddetti reati tributari. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata, tratteremo delle società di revisione, cioè quelle società che devono certificare i bilanci, ne rispondono anche da un punto di vista legale. È un obbligo di legge dal 2004 per tutte le società, era già un obbligo per le società quotate. Ci interessa il loro punto di vista per capire che fotografia emerga della situazione dei bilanci delle principali società italiane da chi è chiamato a certificarli anche semestralmente, quindi gli ultimi semestri di bilancio. Avremo come ospite il numero uno di PricewaterhouseCoopers, che è uno dei più grandi certificatori al mondo, sono in tre in sostanza i grandi certificatori, ma ci interessa appunto capire che cosa rispetto alla normale fotografia che loro scattano di diverso vi sia in questo periodo. Ancora, i mercati finanziari come sempre saranno oggetto di questa puntata, ma parliamo anche in apertura di IKEA, perché l'IKEA oggi ha presentato i dati, i conti sul 2008, il piano industriale sul 2009 e anche e soprattutto fatto capire quali sono le sue risposte alla crisi. IKEA è uno dei pochi soggetti, diciamo, che non dico si stia avvantaggiando, ma sicuramente non sta venendo penalizzata dalla crisi, proprio per il tipo di offerta che ha di prodotto e di rapporto prezzo-qualità, inutile nasconderselo. I mercati, dicevamo, più 0,4% l'indice di Milano, positivi tutti i mercati europei, Parigi, Francoforte, 0,5 punto percentuale di rialzo, Londra più 0,80, l'America più 0,3%, sul Dow Jones più 0,2 sullo Standard & Poor's, euro a quota 1,47,5, quindi vicino a quota 1,48, ancora Mondadori tra i titoli più 5,4, Tenaris più 2,5, Mediaset più 2,2, Unicredit più 2, Impregilo più 1,4, Geox più 1 come UbiBanca, lo 0,90 e rialzo di Finmeccanica e Monte dei Paschi, Mediolanum più 0,80%. Chi perde? Parmalat meno 2,1, Italcementi meno 1,6, Mediobanca meno 1,5, Fondiaria meno 1,1, Terna meno 0,90, come il Banco Popolare, Prismian e Unipol. Ultima cifra, 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, confermo a chi già scrive che l'euro è sui livelli massimi da un anno a questa parte, non in questo istante, ma insomma oggi è toccato intorno all'una quota 1,4768, il massimo da un anno contro il dollaro. Nel frattempo l'Asia questa mattina era andata bene anche per l'andamento delle materie prime, particolarmente alte tutte le materie prime, alcuni di voi lo fanno già notare, e questo ha portato Hong Kong a guadagnare quasi il 2%, Shanghai più 2, Tokyo più 1,7. E le borse europee, fotografate dall'indice Euro Stoxx 600, cioè i 600 più grossi gruppi quotati in Europa, è tornato ai massimi da quasi un anno, 11 mesi. Questo lo dice lunga sul tipo di recupero che le borse stanno mettendo a segno, nonostante ancora un insieme di incertezze sui tempi della ripresa e l'intensità. Una notizia buona arriva dagli Stati Uniti, perché le richieste di sussidi di disoccupazione sono scese la scorsa settimana di 12.000 unità, mentre le previsioni erano di un rialzo e quindi di un aumento delle richieste di sussidio. Anche la vendita di abitazioni nuove, di nuove case in America è cresciuta di 1.5%, un dato questo in linea, ed è salito, so che alcuni di voi sono scettici, storgono la bocca, ma l'indice di Filadelfia è un indice abbastanza importante, perché è un indice storico in America per fotografare l'andamento del mercato, del settore manifatturiero. Ebbene, a settembre è schizzato a 14 punti, uno dice, e chi se ne frega? No, il problema è che ad agosto era a 4 punti, a luglio viaggiava intorno ai 3 punti. Schizzare a 14 vuol dire avere un andamento che è 3 volte superiore, e le stime degli analisti in questo caso sono state sconfessate per difetto, perché gli analisti si attendevano un rialzo molto molto più modesto, 8 punti. Tra l'altro, in Europa la casa automobilistica GAZ, che è quella che partecipa alla, è russa, partecipa alla corte Magna Sberbank per l'acquisto della maggioranza della Opel, che è controllata ancora dalla General Motors, ha informato il Ministero russo dello sviluppo sociale che ha intenzione di licenziare entro la fine dell'anno 14.000 dipendenti. Non è dato sapere se questi licenziamenti sono dovuti a motivi strutturali o se le servono per l'operazione di acquisto di Opel. Questa sera vi sarà un vertice in Europa, a Bruxelles, dei capi di Stato di Governo in vista, diciamo, del G20 di Pittsburgh, che si terrà dalla 24 al 25 settembre. Dicevo, un vertice questa sera a Bruxelles con tutti i capi di Stato di Governo dell'Unione Europea. Sul tavolo vi saranno le misure di sostegno all'economia e il nodo degli stipendi, dei bonus, dei manager, anche perché l'Unione Europea intende chiedere sanzioni per le banche che continuano o che continuassero a corrispondere super bonus ai propri dirigenti. La posizione europea, condivisa da tutti i principali ministri, infatti vuole impedire per un certo periodo l'esercizio delle cosiddette stock option, quindi la possibilità di vendere le azioni che tu hai avuto come premio, evitare che tutti i manager siano al riparo dai rischi, dare agli organi di controllo della banca la possibilità di ridurre i compensi, prevedere sanzioni per chi non applica questi principi, e ancora fissare i bonus e la parte variabile dello stipendio ad un livello appropriato in cui ci siano, diciamo, intanto i risultati, quindi evitare i bonus garantiti dati comunque, e poi che vi sia anche una congruità rispetto alla parte fissa dello stipendio. E nel frattempo le banche italiane, lo abbiamo scoperto un'ora fa, sono finite nel mirino della Commissione Europea assieme a quelle francesi, spagnole e austriache. Perché da quanto si apprende da fonti europee, martedì prossimo la commissaria europea ai consumatori Meglena Cuneva presenterà un rapporto che indica e punta il dito contro la poca trasparenza e i costi più alti rispetto alla media europea dei servizi bancari in questi quattro paesi: Italia, Francia, Spagna e Austria. Non sono solo i costi più alti, ma anche i costi nascosti, cioè quelli che non si vedono, e la poca trasparenza, la poca chiarezza su questi costi ad avere sollevato l'attenzione di Bruxelles. Secondo gli esperti della Commissione, infatti, le banche tendono a nascondere i costi e con una simile condotta rendono impossibile per i consumatori capire quanto stanno spendendo, nonché fare un confronto con le altre offerte. Proseguono le indagini della Guardia di Finanza nel frattempo in tutta Italia sull'evasione fiscale, controllo in corso nei confronti di 130 persone per il trasferimento a San Marino di 50 milioni di euro. ha fatto sorridere alcuni che tra queste persone vi fosse anche il porno attore, la pornostar Rocco Siffredi, evidentemente un settore che non conosce crisi. Al setaccio le posizioni di 700 nominativi tra aziende, persone fisiche residenti a San Marino, ma con domicilio fiscale al Consolato Generale della Repubblica del Titano, che sta a Rimini. Domani parleremo del mercato immobiliare, perché oggi Tecnocasa ha diffuso un dato: il mercato va verso la normalità, i prezzi sono ancora in calo di quasi un 3%, in particolare sono calati i prezzi delle case a Napoli, meno 3,8%, Bologna meno 3,4%, Genova meno 3%, calo del 2,8% a Roma e dell'1,7% a Milano. Primo tema allora, piccolo approfondimento, poi parleremo della nostra legge finanziaria, del decreto anticrisi. Ci stiamo occupando di chi reagisce alla crisi, delle varie strategie. Ebbene, oggi l'IKEA, il numero uno italiano di IKEA, Roberto Monti, ha spiegato come a livello globale la crescita nell'ultimo anno di IKEA è stata inferiore a quella degli anni passati a causa della crisi, anche se IKEA sta rispondendo a questo. Ci interessa soprattutto perché, insomma, l'IKEA è l'emblema della vita low cost, della sobrietà, di chi fa del low cost uno stile di vita. IKEA sta andando sicuramente molto bene in tempi come questi, perché la nostra offerta diventa ancora più importante, ovviamente, quando la gente ha meno risorse a disposizione. Però la risposta, se andiamo bene, non è perché ci svegliamo la mattina in questi periodi e di fare le cose molto straordinarie, è piuttosto la continuità. Chiaramente è una crescita minore di quello che noi abbiamo presentato negli ultimi anni, per cui quando mi si chiede se IKEA risente la crisi, certamente anche IKEA, come qualsiasi realtà, sente della crisi. Non si può aspettarsi che nel mondo, quando la congiuntura è com'è, che si può crescere con gli stessi two digits e doppie cifre come in altre annate. Però è molto importante dire che la crescita che vediamo, che noi stiamo facendo, è un segnale di grande rinforzamento e posizionamento sul mercato. Ovviamente fra i nostri mercati vari nel giro per il mondo ci sono i paesi che lo vivono più fortemente la recessione, in primis ovviamente i paesi anglosassoni, ma anche la Spagna, mentre invece paesi che lo sentono di meno. In effetti l'IKEA nell'ultimo bilancio, al 31 agosto 2009, ha avuto un fatturato che comunque è cresciuto a livello mondiale, l'1,4% in più, 21 miliardi e mezzo di euro. IKEA vanta praticamente 123.000 collaboratori, come li chiama, e ha avuto, pensate, nell'ultimo anno, fino ad agosto, 590 milioni di visitatori nei 300 negozi che sono presenti in 37 paesi. In Italia pure il fatturato è migliorato, più 3,9%, 1 miliardo e 380 mila euro, 39 milioni di visitatori. E poi hanno annunciato oggi nuove aperture di centri, di punti vendita. Ma l'Italia, pensate che è al quinto posto al mondo per le vendite di mobili IKEA, dopo Germania, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Ed è al terzo posto, perché noi non solo compriamo i mobili dell'IKEA, ma forniamo i mobili all'IKEA, per fortuna anche. È al terzo posto come paese fornitore di mobili e complementi di arredo IKEA. Praticamente dopo la Cina e la Polonia, il terzo fornitore al mondo siamo noi. Il piano industriale, anche come offerta, diciamo, e reazione alla crisi, lo ha illustrato sempre Roberto Monti al nostro Salvatore Filippone. Sicuramente continuiamo a ricrescere a livello mondiale con la nostra formula, il nostro concetto, che ovviamente vuole avvicinarsi alla maggioranza delle persone che ovviamente in questa situazione economica ha sempre meno risorse a disposizione. Certamente la nostra offerta si presta molto molto bene, e i nostri investimenti fatti sia nelle nuove aperture che nelle persone, nelle competenze delle persone, lo continuiamo a fare a prescindere se è una congiuntura bassa o alta. Questo ovviamente ci riposiziona ancora più in modo più forte con il rapporto con la clientela. E questo comprende anche in alcuni casi l'insediamento di centri commerciali, come l'apertura che stiamo per fare a Vilesse, Friuli, con un centro commerciale di sviluppo nostro, che chiaramente lavora con gli stessi valori dell'IKEA come cultura aziendale, ma che certamente dovrebbe rafforzare l'offerta complessiva. Quindi non tutti soffrono. Walmart in America, grandissima catena, la più grande penso, catena commerciale, ha avuto dei conti anche migliori delle attese, se non ricordo male Kentucky Fried Chicken, un'altra catena di fast food, ha avuto conti che andavano bene. McDonald's in Europa ha assunto centinaia di persone, IKEA va bene, le compagnie low cost vanno bene, insomma mi sembra abbastanza chiaro il messaggio da low cost. Però passiamo alla light finanziaria, se mi passate il gioco di parole, perché il prossimo 22 settembre dovrebbe arrivare all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri la legge finanziaria 2010. Ora, rispetto a altri anni, e ricorderete finanziarie storiche in cui per settimane eravamo occupati a cercare di capire che cosa succedesse, quale fosse l'assalto alla diligenza, questa sarà una finanziaria light, come già la chiamano. Chiedo conferma alla voce che ci ha accompagnato in questi anni, purtroppo per lui, a commentare le leggi finanziarie, Dino Pesole, buonasera. Buonasera Sebastiano, un saluto agli ascoltatori. Eccomi. Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore. Allora, dicevo, finanziaria leggera, a mio avviso, anche perché la vera legge finanziaria quest'anno è il decreto anticrisi e tutte le misure anticrisi, cioè insomma un anno molto molto particolare. I conti pubblici non se li cura nessuno in tutta Europa, cioè il Maastricht non lo va a vedere nessuno in questo momento, tutti i paesi sono ampiamente sopra il 3% di deficit. Pochi articoli, se ho ben capito, per un ammontare di manovra pari a quanto, Dino? Pochi articoli, si parla di 4-5 articoli, 3-4 tabelle, per una, diciamo, ammontare che dovrebbe aggirarsi attorno ai 3-4 miliardi di euro. Anche se al momento però non c'è una certezza assoluta su queste cifre, e il motivo essenziale dipende dal fatto che non si sa se all'interno di questi 3 o 4 potranno essere contenuti anche i finanziamenti per la tranche, diciamo, di quest'anno, cioè del 2010, per i contratti pubblici, che costa 2 miliardi su un totale di 7 miliardi nel triennio. E allora, se, come è probabile, io credo dovrebbe essere, nella finanziaria verranno comunque trovati fondi per far fronte a questo, l'importo complessivo potrebbe salire a 5 miliardi, comunque stiamo parlando di importi contenuti e si tratta unicamente di quelli che i tecnici dell'economia definiscono impegni inderogabili. Faccio un esempio: occorre finanziare, è purtroppo argomento triste della giornata di oggi, occorre affrontare e finanziare le missioni all'estero, e quello va fatto in finanziaria, perché se no mancano i soldi ai nostri soldati all'estero, e bisogna far fronte alle occorrenze, diciamo, normali, della gestione normale dello Stato, senza fare molto altro, perché come dicevi tu, in realtà la vera manovra non correttiva, perché sui saldi in realtà la correzione è stata minima, ma sulle misure per far fronte alla crisi è stato il decreto che è stato approvato il 1 agosto, che è la legge anticrisi, che è quella, insomma, che in qualche modo ha anticipato la finanziaria. È un po' quello che è stato fatto l'anno scorso. Sì, e ricordiamo quanto vale però questa legge anticrisi? Dunque, il decreto anticrisi, complessivamente? Il decreto anticrisi dal punto di vista dei saldi è a quasi saldo zero, poiché è compensato al proprio interno da aumenti contestuali, diciamo, di imposizione, anche se relativamente bassi, e da tagli alla spesa corrente. Quindi sostanzialmente per i saldi è pari a zero. Mobilita risorse per circa 11 miliardi nel triennio, ma sono, diciamo, risorse compensate. Sui saldi, e questo è interessante perché si riallaccia a quello che dicevi tu, in realtà il totem del deficit, poiché tutti ormai l'hanno largamente sforato, anche quest'anno noi supereremo di gran lunga il 4-5% del PIL, però sembra essere quasi inevitabile, e anche per l'anno prossimo non si prospetta, diciamo, una situazione molto più incoraggiante. Allora voglio chiarire a chi scrive al 3492386666. Tutti i paesi europei, non parliamo poi dell'America e di altri paesi, avranno deficit, ma restiamo in Europa perché è solo l'Europa che ha il tetto di Maastricht del 3% del deficit sul PIL. avranno deficit che viaggeranno dal 4 in su, se va bene. Però diciamo, nessuno neanche nemmeno ventilato l'ipotesi di sanzioni, di procedure sanzionatorie, come avvenne invece, ricordo, nel 2001, 2002, 2003, perché la situazione è così eccezionale che si ritiene politicamente, oltre che economicamente, inopportuno andare a chiedere ai paesi di stare col 3% del deficit quando hanno cali del PIL pari al 5, 5.1, 4,5. Per cento. È chiaro, e lo dico appunto a chi scrive, che prima o poi, ne abbiamo già accennato ieri, bisognerà, con quella che tutti chiamano la exit strategy, la strategia di uscita, tornare a ridurre il deficit e quindi ridurre il debito. E questo significa o nuove tasse o minori spese o tutte e due le cose. A 7:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Di nuovo ricordo che il programma oggi terminerà alle 18 per lasciare spazio al nostro speciale dedicato alla tragedia che è avvenuta a Kabul e ai militari italiani morti, purtroppo. Noi andiamo avanti con i nostri temi. Chiedevo a Dino Pesole, al di là della manovra leggera che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri il prossimo 22 settembre, e che appunto pagherà tra l'altro anche le missioni, i soldi serviranno anche per pagare le missioni dei militari italiani all'estero, oltre che per il rinnovo dei contratti pubblici, il fronte più così in divenire, più mosso in questo momento rappresenta è quello dello scudo fiscale. Noi già chiarimmo due giorni fa con il presidente commercialisti italiani che lo scudo fiscale praticamente non faceva venire in meno questa volta le norme antiriciclaggio, per cui in realtà non arrivava l'unica cosa da cui tutelava, l'unico scudo era la non comunicazione al fisco, però non vi erano tutele per tutti i reati previsti dalle norme antiriciclaggio nell'aver esportato i capitali all'estero, e poi ci potevano essere alcune incongruenze. Sembra che stiano estendendo la copertura sui reati tributari, Dino? Questo è l'altro aspetto interessante ed è anche per questo decisiva la giornata di martedì, poiché si sta parlando di emendamenti al decreto correttivo che ha corretto la manovra anticrisi di agosto, che è in discussione al Senato. Ieri sera, appunto, in tarda serata, è stato presentato un emendamento da parte di un senatore della maggioranza che si chiama Salvo Fleres, sul quale i relatori e la stessa maggioranza hanno espresso parere favorevole, mentre il governo si è riservato di decidere. In questo emendamento ci sono parecchie novità, ad esempio si dice che quanti hanno un procedimento penale in corso possono accedere allo scudo, si dice ad esempio che viene sancita la non punibilità ai fini dell'adesione allo scudo sempre per alcune tipologie di reati tributari, parlo ad esempio dell'omessa dichiarazione, la dichiarazione fraudolenta, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili. E poi l'altra novità sarebbe l'anticipo dei tempi, perché come sappiamo per accedere allo scudo ora c'è tempo fino al 15 aprile del 2010. Mentre la proposta di modifica, e su questo sembrerebbe che appunto il governo abbia già dato un sostanziale assenso, ci sarebbe un anticipo al 15 dicembre di quest'anno, e questo è evidente il motivo, è un evidente motivo di gettito, perché se si anticipa, invece di farla diciamo di 6 mesi, la si riduce a 3, gli incassi, ricordo a chi ascolta che per accedere allo scudo occorre pagare un'imposta straordinaria del 5% dell'ammontare che si rimpatria. Ecco, l'incasso che il fisco prevede essere attorno ai 3-4 miliardi ipotetici, perché non c'è alcuna certezza, a questo punto sarebbero acquisiti al bilancio di quest'anno con beneficio per i conti pubblici. Per i conti pubblici di quest'anno. Ad esempio, ne dico una delle possibilità è che attraverso gli introiti dello scudo si possa finanziare una parte della tranche per i contratti pubblici. Esatto. E quindi l'anticipazione, diciamo, per mettere a bilancio quest'anno. Staremo a vedere. Grazie a Dino Pesole del Sole 24 Ore. Adesso la borsa. I'm in the right way. Allora, borsa particolare oggi perché ve la darò io la borsa, nel senso, per motivi appunto anche di palinsesto, dovendo lasciare spazio allo speciale, darò io l'aggiornamento dei titoli, poi domani torneremo con il classico appuntamento con Radio Colli, Sole 24 Ore. Allora, la borsa oggi ha chiuso con mezzo punto percentuale di rialza, Milano, ma devo dire in tutta Europa, Parigi più 0,56, Francoforte più 0,54, Londra tra le migliori più 0,80. L'America non è che si stia muovendo molto, più 0,2%. Questa mattina però le borse erano già ben intonate perché tutta l'Asia ha chiuso con rialzi anche degni di nota, il 2% a Shanghai, il 2% quasi a Hong Kong, l'1,7% a Tokyo. Il motivo si chiama forte rialzo del settore delle materie prime, e con i titoli legati alle materie prime che sono ben andati in tutta l'Asia, quindi apertura buona anche in Europa. L'euro si mantiene forte, quota 1,47,5. Vediamo alcuni titoli, o meglio, ascoltiamo alcuni titoli. Mondadori più 3,70%, bene anche Mediaset più 1,90%. E questo perché i dati usciti sulla raccolta pubblicitaria, sia di Mondadori che di Mediaset, hanno evidenziato che c'è un rallentamento nel calo, per cui non è ancora crescita, ma il calo sta rallentando, quanto segno meno, e secondo alcuni analisti c'è una possibilità di rialzare le stime sul futuro. Sono i due migliori titoli, Mondadori è il miglior titolo, ma bene anche Mediaset. Secondo miglior titolo Tenaris più 3%, ormai è da sedute intere che, dopo anche alcune indicazioni arrivate come sempre da casa d'affari, il titolo guadagna, siamo a 12,35 euro. Bene alcuni gruppi bancari come Unicredito più 2,4% in rialzo, UbiBanca più 1,3%, Mediolanum più 0,90%, Monte dei Paschi più 0,7%. Tra i titoli invece che hanno tra l'altro UbiBanca va anche detto, visto che è chiuso a 10,4 euro, che ha emesso ieri anche un primo cover bond che ha ottenuto il massimo giudizio di valutazione da parte delle agenzie di rating, e questo dovrebbe avere ben intonato il titolo. Sul fronte di chi ha perso invece notiamo soprattutto oggi Parmalat, che ha perso l'1,70%. Parmalat è tra i titoli peggiori, dopo, visto che insomma, adesso arriverà anche la distribuzione del racconto del dividendo, per cui il titolo locale scende a 1,90 euro. Italcementi meno 1,5, Mediobanca meno 1,3, Prismia meno 1, Terna meno 0,90. Mediobanca è ancora debole alla vigilia praticamente dei conti, poi anche così delle indicazioni sul patto di sindacato, scende a 9,77 euro. Devo dire che tra i titoli migliori e peggiori in assoluto il migliore è Finarte, casa d'aste, più 43% a 33 centesimi. Ha avuto mandato di vendere all'asta tutta la collezione di Alitalia, che uno dice è una collezione molto importante. Peggior titolo invece Gabetti, meno 5,4%, e Telecom Media, qualche realizzo, meno 4,80%. Bene anche Bulgari dopo un rialzo del target price. Allora, le società di revisione. Oggi, tra l'altro, PricewaterhouseCoopers ha espresso un giudizio positivo sulla semestrale del gruppo Risanamento, specificando però che non si tratta di un giudizio professionale di revisione, perché è un bilancio consolidato abbreviato. Ma insomma, noi vogliamo capire che fotografia emerga da chi deve certificare i bilanci dell'andamento economico, al di là di quello che è fisiologico. Grazie allora a Pierangelo Schiavi, presidente di PricewaterhouseCoopers Italia. Buonasera. Buonasera. La certificazione è un obbligo per le società quotate, è un obbligo anche di fatto per altre società, per esempio quelle controllate da enti pubblici, può essere richiesta dalle banche a società che domandano prestiti mutui. In sostanza, lo dico a tutti, visto che già scrivete al 349-238-6666, i revisori sono iscritti a un albo della Consob. Cosa fanno? Vanno a esaminare i bilanci di un'azienda, verificano che la contabilità sia regolare e veritiera, e poi possono chiedere documenti particolari, notizie utili per poter certificare il bilancio all'amministrazione chiaramente della società, e poi esprimono un giudizio che è una certificazione di bilancio oppure può anche essere un giudizio con rilievi, per cui negativo, oppure dichiarare l'impossibilità di certificare un bilancio. Ora, in una situazione normale si tratta di casi, chiamiamoli così, patologici, in cui c'è un bilancio fatto male, lacunoso, palesemente non veritiero e la società di revisione non certifica il bilancio, ma si tratta di casi veramente che poi fanno anche storia sui giornali. Vorrei capire invece se adesso con questa situazione le difficoltà diventino, mi passi il termine, dottor Schiavi, strutturali, anche perché voi, poi lo ricorderemo, avete una visione che non è solo italiana, essendo presenti in 153 paesi, avete 150.000 dipendenti, 28 miliardi di dollari di giro d'affari e solo in Italia avete 17 sedi con 3.000 dipendenti. Quindi diciamo la fotografia che riuscite a dare è veramente globale. Iniziamo dall'Italia. Avete notato nel certificare e quindi andare a porre la vostra firma le semestrali, i bilanci semestrali delle società quotate, ma non solo, un aumento delle difficoltà? C'è stato sicuramente un aumento delle difficoltà, era un aumento che si era già manifestato sui bilanci al 31/12/2008 e che direi è continuato anche in questi sei mesi, tant'è vero che per ciò che riguarda le società quotate noi sappiamo che c'è un certo numero di società che è sotto stretta osservazione da parte del nostro regolatore, cioè da parte di Consob, per vari motivi, viene chiamata la cosiddetta blacklist, nella quale c'è appunto questo la lista nera. Numero, sì, una blacklist di società che hanno oggettivamente delle difficoltà o società alle quali il revisore ha negato il proprio sigillo, chiamiamolo così impropriamente. Il problema è che in questo contesto economico generale un aspetto fondamentale, che è quello della continuità aziendale, che è un principio base per la redazione del bilancio, spesso è messo in dubbio dalle circostanze oggettive in cui la società si trova e di conseguenza il revisore deve stare particolarmente attento nel valutare le asserzioni degli amministratori che redigono il bilancio, che hanno la responsabilità della redazione del bilancio, e dunque deve valutare con attenzione se queste asserzioni sono credibili, plausibili, ragionevoli, e talvolta, come è capitato a noi ma anche ad altri revisori, non può esprimersi perché le incertezze sono troppo gravi e pervasive. Quindi, se ho ben capito, lei ci sta dicendo che mentre in un periodo normale il revisore può avere dei rilievi o dichiarare l'impossibilità di dare una certificazione perché ci sono delle violazioni, dei buchi, così, adesso il vostro problema è capire non tanto, cioè, non soltanto quanto ha perso, come sono messi i conti, però capire se, mi passi la forzatura, l'azienda che è andata a certificare esisterà anche l'anno prossimo. Cioè, quando lei parla di continuità aziendale è che voi temete che questo bilancio si possa certificare, ma non si può dire nulla se vi sarà un altro bilancio nel 2010? Esattamente quello. C'è anche da dire una cosa: quando si parla di continuità aziendale si parla di aspetti che riguardano il business della società e dunque in parte sotto controllo degli amministratori, ma si parla anche di fattori esogeni. Evidentemente quando l'insieme, diciamo, dell'economia soffre, al di là degli aspetti di business che possono avere dei problemi, evidentemente si aggiunge il contorno dell'economia che soffre, di conseguenza questo aspetto diventa ancora più conclamato rispetto ad altri momenti in cui un'azienda può anche non andar bene, ma se l'economia in generale tira, evidentemente. Quindi non c'è solo l'andamento sentito dell'azienda, ma ci sono anche le prospettive economiche sull'anno prossimo che vi fanno dubitare. Il contesto complessivo. Contesto, esatto. Per cui possiamo dire che c'è una parte di aziende che hanno difficoltà a ricevere la certificazione perché hanno numeri così brutti che intrinsecamente voi dite non so se tu ce la farai a essere in vita l'anno prossimo. E un'altra parte che invece ha dei numeri, per carità, negativi, chi è che non li ha in questo periodo? Ma il vostro problema è capire non tanto se sarà in vita lei, quanto se ripartirà la domanda e per esempio i consumi, gli investimenti generali l'anno prossimo, altrimenti ci potrebbe essere un problema anche per lei. La sopravvivenza dell'azienda in prospettiva è sempre legata a un business plan. Il business plan è legato all'andamento dell'economia in generale. Ha notato alcuni miglioramenti negli ultimi tempi o no? O diciamo, la vostra attività, fermandosi alle semestrali, fotografa ancora la parte più nera del periodo? Ma direi che è difficile fare una previsione. A parte che il campione è abbastanza ristretto, stiamo parlando in generale di circa 300 società quotate, perché il nostro mercato borsistico, lo sappiamo tutti, è un po' sfittico, anche rispetto ad altri paesi. Sono solo 300 quotate e direi che tirare delle conclusioni su 300 quotate, quando sappiamo bene che la nostra economia è fatta di molte aziende medie e piccole. Piccole, con una base, diciamo, familiare, evidentemente un po' un azzardo, ecco. Il problema principale che voi avete trovato invece nei bilanci, c'è qualcuno che può avere la tentazione di nascondere le perdite anche magari per avere un bilancio che gli permetta un rapporto migliore con la banca? Chiaro che più perdi, più la banca tende a considerarti inaffidabile. Ma ci può essere. Comunque direi che i problemi principali, al di là dell'aspetto, diciamo, principe, che è quello della continuità aziendale, e quella di alcune altre tipologie di valutazioni, per esempio la valutazione dell'avviamento, la valutazione dei cespiti, sempre in una prospettiva di continuità aziendale, e di conseguenza anche questo evidentemente crea una ulteriore complessità nel nostro lavoro, perché queste valutazioni sono sempre legate anche al a dati prospettici. Certo. Dati prospettici. Ma per esempio, valutati, visto che il mercato immobiliare non è crollato in Italia, ma non è neanche cresciuto, e che alcuni valori si sono rivelati irrealistici, voi avete notato più problemi, lei parlava dei cespiti o comunque degli asset, sul settore immobiliare, cioè imprese che avevano a bilancio, siccome l'avevano pagata, poniamo 100, tenevano a bilancio una cosa come se valesse 100, quando poi il mercato ti dice che adesso il prezzo corrente è magari 80 o 70. Ma il problema di quel settore specifico non è solo... Ma anche di imprese che avevano anche, diciamo, investimenti immobiliari o di altro genere. Ma sicuramente l'andamento dei valori può aver influito, anche perché molto spesso l'andamento dei valori poi è legato al rispetto di certi covenants, e di conseguenza quando i valori si abbassano i covenants vengono... Cosa sono i covenants? Covenants sono dei ratio, dei rapporti tra debito, equity... Cioè quanto ti può indebitare sulla base, poniamo, esatto, del tuo patrimonio. Oppure il finanziamento non deve eccedere il 50% del valore del cespite, ma se il cespite ha perso più del 50% del valore, evidentemente chi ha finanziato chiede o un reintegro o comunque altre misure. Grazie al presidente di PricewaterhouseCoopers Italia, Pierangelo Schiavi. Grazie a lei. Sì, ripeto a chi sta scrivendo, anche non possiamo fare i nomi delle società a cui si riferiva il presidente di PricewaterhouseCoopers, su chi paga la società di revisione, le pagano i clienti, ma hanno degli obblighi di legge, attenzione, obblighi Consob, ma non solo. Poi voglio dire, se uno non si fida, non si fida. Detto ciò, oggi mi sembra il caso di chiudere tutti i temi di economia, lasciare spazio purtroppo agli aggiornamenti che arrivano dall'Afghanistan, al nostro speciale, e sperare che domani sia una giornata migliore. Grazie a voi in ascolto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.